che con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento anche di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. Anche proprio d'accordo con i nostri giocatori in questo settore, per partire sorprendendo con una difesa, diciamo, più aggressiva su pick and roll. E devo dire che Radosevic ha fatto un ottimo lavoro sicuramente in quell'aspetto. Poi naturalmente ci sono anche molte altre componenti. Infatti dopo ci hanno castigato un po' troppo in quella situazione, poi però abbiamo trovato più appoggio dentro, un po' sbasso in attacco, poi il discorso di riuscire a trovare più equilibrio, diciamo, con i diversi schieramenti. E se questo accadrà non sarà proprio qui, proprio qui. Me come Milano. C'è senz'altro da fare i complimenti a Varese, ha giocato un'ottima partita, sono stati assolutamente più aggressivi di noi, più duri, più intensi, in difesa anche in attacco, riuscendo ad andare anche a finire vicino a canestro quei tiri che viceversa noi abbiamo soprattutto nel primo tempo sbagliato. Al di là del fatto che ovviamente la risposta è no, che qui non si arrende nessuno, non fa passo indietro nessuno. Abbiamo ricostruito una squadra da poche settimane e sono sicuro che continuando nei mesi che ci separano dal playoff a lavorare saremo competitivi nel playoff. Proprio qui, proprio qui. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Conte sta parlando, poi ve lo faremo anche sentire. C'è una barzelletta tutta italiana, difficile da raccontare all'estero, terzo mondo compreso, secondo cui Cagliari e Milan dovrebbero giocare a Torino, ma chissà, comunque non pare in Sardegna, ma ancora non è certo, e sono barzellette come quelle sui carabinieri, no? Un po' difficili da spiegare all'estero. Però oggi vogliamo partire da quanto visto ieri sera. Abbiamo ripescato M come Milano di Memo Remigi sulla voce di Sergio Scariolo, sconfitto e sotto accusa. Possiamo ricordare le parole del presidente Livio Proli dell'Armani Milano dopo la prima giornata delle Final Eight di Coppa Italia, in cui Varese ha asfaltato letteralmente l'Armani, in cui Cantù ha perso contro Roma nonostante un tentativo di rimonta. Ebbene, Proli ha detto: non si può umiliare così quello che rappresenta il gruppo Armani, si può perdere ma non così, bisogna giocare e non l'abbiamo fatto, ma il tempo dei cambiamenti è finito. Sarò secco e cattivo, ma è un po' il mio mestiere. La prima giornata della Coppa Italia di basket dice, secondo me, che la meravigliosa Cantù sembra un po' un treno a fine corsa e che Milano non è una squadra e chissà se lo sarà mai. Coach Dan Peterson, buon pomeriggio. Ciao Carlo, ovviamente non esattamente un assist che mi fa, però ieri sera è chiaro che meritavano di vincere due partite in Roma per quello che è sviluppato, pure Cantù facendo una rimonta veramente eroica, non sono riuscito a concludere questo capolavoro di rimonta, però Roma veramente ha giocato una grande partita, e 89 punti contro Cantù non è una cosa facile. E Cantù che ha fatto una percentuale, penso 15 su 23 da 3, perso lo stesso, infatti Trinchieri, bravissimo, lui ha detto colpa mia di Trinchieri, ha preso lui le frecce nel petto per tutto, però ovviamente la squadra è stata veramente dominata rimbalzi in attacco, cioè Cantù ha preso due rimbalzi in attacco, Roma non so, 17, 18, sì. 19, Gis ha fatto quello che voleva sotto il canestro, azione in cui l'ha fatto un tiro sbagliato, un tap in dentro, due o tre volte è successo questo, quindi questa spiega la prima. La seconda, quello che avete appena spiegato tutti voi, è che a Milano in casa, dopo i buoni segni di progressi, dopo i cambi fatti, quattro vittorie in fila in campionato, ieri è stato veramente travolto da Varese, da Mike Green, dall'intensità di Varese, nessuno si nasconde qui, anche Sergio Scariolo l'ha detto, Livio Prolli l'ha detto, Keith Langford ha detto che loro sono più squadra di noi, quindi basta far specchio a quello che hanno detto gli altri e sia una fotografia precisa della situazione, che ovviamente per Milano è un momento, un terrificante bivio della stagione adesso, cioè da qui in poi non è più permesso niente probabilmente, cioè in campionato non c'è più la Coppa Eurolega, non c'è più la Coppa Italia, adesso devono tuffarsi di tutto sul campionato, ma ieri è stata una cosa veramente tremenda per Milano e devo dire per la Coppa Italia e per la Lega Serie A Pallacanestro, perché perdendo la squadra di casa, cioè certo, la manifestazione ha sofferto tanto. Sì, Milano però, intanto invito tutti gli ascoltatori su tutti gli argomenti che vogliono, 800 24 00 24, quante volte abbiamo detto per Milano queste parole negli ultimi anni, compreso quando c'eri tu, fuori da Eurolega, fuori da Coppa Italia, siamo a un bivio, c'è solo il campionato, però sembra non cambi mai nulla, coach. Sembra che la strada non si trovi mai. Devo dire questo qui, quando mi prendo responsabilità solamente per la Coppa Italia, quell'anno lì, che abbiamo perso il primo turno con Avellino, eravamo già fuori dall'Eurolega, però e nonostante l'infortunio Maciulas, abbiamo secondo me fatto tutto quello che potevamo fare in playoff e alla fine secondo me abbiamo avuto una cultura abbastanza giusta in una squadra. C'è un lavoro da fare ancora, Carlo, come hai detto tu benissimo, e c'è lavoro da fare ancora oggi. Senti, Cos, l'altra faccia della medaglia, ne accennavi tu prima, sono Roma e Varese, meravigliose figlie della crisi economica e della fantasia che ormai serve per costruire le squadre, visto che i soldi sono finiti. Roma non doveva neanche più esistere quest'estate e invece sta facendo la migliore stagione degli ultimi anni, spendendo, credo, un decimo di quello che spendeva prima. Yeah. E Varese è una squadra vera. Varese è una squadra vera, è una squadra con un budget limitato, ha un leader che è Mike Green, indiscutibile, è una squadra che ha gerarchie precise, è una squadra. Bisogna partire, Carlo, se mi permette di spendere una parola sulla società e il premio al buon senso economico, hanno sia Varese che Roma hanno stabilito un budget, possiamo fare questo, non oltre, non sono andati oltre, non fanno dei cambi in volo sul mercato, se uno si fa male, va in ospedale, si guarisce e torna. Eri, tanto per citare un esempio, altri di Roma, tanto per citare esempi, quindi non c'è il supermercato, tanto per dire, non c'è la Malpensa per loro, agiscono e reagiscono con tutto quello che hanno già in fornitura, okay? non vanno a fare le spese per sistemare cose, bisogna dire questo, essere giusto, anche Milano ha fatto zero, parametri zero i tre cambi, via tre giocatori, dentro tre giocatori, via Kurt, via Stipcevic, via Hendrix e dentro ovviamente Bremer, Green e Radosevic, quindi costi la società zero. Anche Milano adesso sta operando con, a mio avviso, estremo buon senso, che è anche un buon segno. Per dire, non crediate mica che noi compreremo questo qui. Voi dovete fare con quello che c'è realmente in cantina, i buoni cuochi con il materiale che c'è proprio in cascina adesso. Non facciamo altre spese. Cos, grazie. Alla prossima. Ciao Carlo, amici sportivi. Ciao a tutti. Ciao coach Dan Peterson. 800 24 00 24, cari amici convocati, questo è il vostro numero verde per intervenire a schema libero, come sempre, in questo programma. Tutti convocati. Passa per diventare più competitivi e più forti anche in Europa. Quindi l'Europa è una conseguenza dell'Italia, questo è fuori dubbio. Non può essere in questo momento, che lavoriamo da solo un anno e mezzo, l'Europa che diventa prima dell'Italia. L'Europa è una conseguenza di quello che facciamo in Italia. Noi dobbiamo crescere in Italia per diventare più forti in Europa e arrivare attraverso gli anni poi a partire da favoriti. In questo momento noi siamo un outsider che sta facendo sicuramente, ha già fatto in un girone molto difficile una cosa importante, qualificarsi da prima. Questo è Antonio Conte che ha, queste erano le ultime battute della sua conferenza stampa, ma ha detto anche altre cose che poi, se riusciamo, ve le faremo sentire. Insomma, ha fatto un po' le pulce al calendario, se non ho capito male, in stile un po' murignesco, ma perché noi giochiamo sabato alle 18 quando dovremmo giocare? Insomma, queste cose qui, che poi sentiremo. Così come sentiremo anche più tardi a voce degli avversari di Conte, ma anche dell'altra grande sfida di domani, Lazio-Napoli. Domani mi sembra una specie di incrocio sulla via dello scudetto, molto interessante. Mentre, ripeto, c'è questa barzelletta che poi vi racconto, perché noi siamo italiani e ci capiamo tra di noi, con una voce, questa barzelletta per cui Cagliari-Milan si gioca a Torino, ma forse, chissà, a Esa Arenas diventa impossibile giocare questa partita. Però ancora non c'è certezza e sono le 14:18 e tra 48 ore e qualche minuto Balotelli, il Milan, il Cagliari eccetera dovranno andare in campo. Meraviglioso, andatelo a spiegare a qualcun altro nel mondo, terzo compreso, ripeto. 800 24 00 24. Sandro domanda a proposito di basket: ma in Final Eight non ci sono 8 squadre, perché si parla solo di 4? Caro Sandro, parliamo delle 4 che hanno giocato, le altre giocheranno stasera. E dunque, tant'è. Vincenzo, provincia di Vicenza. Buongiorno, non ho voglia di parlare di calcio oggi, non ho voglia di parlare del numero 46. Non ha voglia di parlare di calcio, non ha voglia di parlare del numero 40? No, ho voglia di parlare del numero 46. Che cos'è il numero 46? 45? Valentino. Ah, Valentino, no? Vabbè, ho capito. Andiamo con la smorfia, Vincenzo, dica. È tornato finalmente, è tornato dove deve essere. Calma e gesso, entusiasti, no. Ma calma e gesso. No. Lui doveva provare di essere ancora capace. Deve ancora provare. Capace, è una fama incredibile. Deve provare. Incredibile, ragazzi. Quest'anno sarà lui il giovane da battere, il giovane 34enne. Il giovane 33-34enne da battere, ma lo speriamo tutti. Sì, certamente peccato che non ci sia Stoner, però mi sembra che sia stato, ne parlavamo ieri con Roberto Ungaro, sostituito in modo eccellente dal giovane spagnolo che la Honda ha ingaggiato. Però fare i puntati su Valentino Rossi, keep calm, anch'io sono tra i fiduciosi, però vediamolo nella crescita, nel corso del tempo e soprattutto in corsa. 800 24 00 24, numero verde. Marco, Napoli. Salve Carlo, la ringrazio per l'opportunità di essere stato convocato. In tema di numeri, io parlerei del numero 12 e del numero 7. Allora, andiamo così, parliamo di numeri, andiamo criptici, così indoviniamo un po'. Numero allora, 12 e numero 7. Il numero 12 sarebbe quello di Dwight Howard, sì. Di ciò che sta uscendo fuori, tipo il fatto che abbia rinunciato a giocare adducendo a problemi fisici, mentre non era vero, e l'hanno dovuto dire dentro praticamente sia Kobe che D'Antoni. E il secondo numero è quello di Bargnani e sulla possibile trade che ci potrebbe essere con i Bulls, se potrebbe essere la definitiva svolta per la sua carriera in NBA, oppure diciamo è la pietra tombale sulla sua praticamente esperienza. Allora facciamo così, poi le giriamo a Flavio, tranquillo Marco, queste domande. Così. L'ultima cosa volevo chiederti, Carlo, quello che vuoi. Ha già chiamato l'ascoltatore che le chiede sempre se ha fatto il lancio di meteo traffico, borsa. No, ma quello lì è... No, perché nel caso glielo chiedo io. Sempre, è simpaticissima sta cosa, sembra quasi fatta apposta. Ma è fatta apposta, in realtà è sempre lo stesso che va in loop. Grazie, sono gentilissimo. Grazie Marco, 800 24 00 24, come vedete schema libero, siete tutti convocati sempre. Marzio Varese, festeggiamo. Sì, ciao Carlo, buongiorno. Ciao Marzio, dammi i tuoi numeri, quali sono? No, i miei numeri sono, allora, 67 sono i miei anni. 67 ti parlo, sono un vecchio tifoso della Ignis dagli anni 60. Sì. Quindi puoi capire che ho vissuto anni di grande entusiasmo. E adesso finalmente sta ritornando un po' di entusiasmo ancora Varese. Ci giochiamo il numero 10 di Mike Green. Cosa ne dici? Ma dico di sì, ci giochiamo il numero 10 di Mike Green, che mi sembra sia il leader di questa Varese. Io mi ricordo il numero 10 di una volta che era il Ossola. Me lo ricordo anch'io. Beh, giocatore un po' diverso, Mike Green dal barone Von Karajan Aldo Ossola, però insomma, figlio dei tempi questo, no? Un playmaker di un altro che ritorna a farci stampo. Sognare, insomma. Ma è una squadra, Marzio, è una squadra vera che ieri sera letteralmente ha asfaltato Milano, tenendola a distanza di sicurezza e quasi giocando con questo svantaggio che ogni tanto si assottigliava, ma mai sotto la soglia del rischio. Varese ha dominato prima di tutto mentalmente, secondo me, questa partita, e Mike Green ha dato... In ogni momento importante ha fatto la cosa giusta, quindi lui è il leader, gli altri lo seguono, e mi sembra che Varese, insomma, possa essere destinata a giocare questa finale di Coppa Italia. Poi vediamo l'ostacolo Roma, che pure ieri sera mi ha impressionato sulla schiena di Gigi Datome, altro leader di un'altra squadra che è una squadra vera. Allora, tra poco vi facciamo sentire un po' di voci, di altre voci di calcio, però prima vedo che c'era un'altra ascoltatrice, Paola, non la teniamo in attesa. Buongiorno signora Paola, o signorina. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ieri ero al forum e anche io tifo Varese, quindi il signore di prima mi ha rubato tutto quello che dovevo dire, ma e no, anche il numero 10 di Green. E allora prendiamone un altro, prendiamo il 13, il 33, 30, cos'è Polonara? 33 di Polonara. Sì, meno male che ieri con quelle triple, insomma, ha fatto bene. Io però mi chiedo, dove può arrivare il Savarese, ma anche in campionato? Domanda legittima, qui io non so rispondere, perché in teoria Milano e Siena sono più forti, però questa stagione sta dimostrando come la teoria alla fine, anche in uno sport scientifico, tra molte virgolette, come la pallacanestro, conta poco. Io ieri sera ho visto due signore squadre di pallacanestro, che sono Roma e Varese. Ho visto una squadra che fu meravigliosa come Cantù, però mi sembra che all'interno di Cantù qualcosa si sia spezzato, al di là della uscita di Marco Svili, sostituito finora certo non completamente da Mancinelli, e quindi la domanda è assolutamente legittima. Un campionato così incerto non riuscivamo a viverlo da anni, e grazie al cielo che è così, quindi tutto il tifo per quel vento che soffia nelle vele di Varese, perché l'incertezza è la madre dell'interesse per ogni evento sportivo. Dunque, sentiamo un po' di voci di pallone, un po' di voci fresche di calcio, a cominciare dalla barzelletta. La barzelletta sarda, abbiamo Contini, sindaco di Quartu. La prefettura ha dichiarato in un comunicato mandato alla Lega, che io non ho ricevuto, ha dichiarato inidoneo, ha usato questo termine, lo stadio di Sarenas. Sulla base della dichiarazione di inidoneità, la Lega stamattina si è adoperata per cercare, perché i rapporti li ha la Lega con la prefettura, io non sono a conoscenza neanche di quelli che sono i verbali ad oggi che mi hanno visto partecipe nel comitato della pubblica sicurezza, e quindi la Lega ha deciso per la scelta di un altro stadio. la deroga che il sindaco partita per partita ha sempre concesso all'amministrazione comunale, non tanto il sindaco, per certe volte è firmata dal sindaco, altre da qualche altro assessore, è una deroga chiaramente eccezionale che si valuta di volta in volta a seconda delle condizioni di ordine pubblico. L'autorità competente per valutare quelle che sono le condizioni di ordine pubblico non è il comune di Quarto, bensì sono altri. Cosa volete che vi dica? Ripeto, è molto difficile raccontare in giro questa barzelletta. Si dice anche che il Cagliari sia intenzionato a non presentarsi a Torino e quindi potrebbe ripetersi la pagliacciata che già abbiamo visto in quel Cagliari-Roma che non ci fu mai con 0-3 a tavolino. Mi auguro che almeno questo non succeda. Partita di domani, allora alle 18 c'è un interessantissimo Juventus-Fiorentina. Montella alla vigilia. No, ma è una rivalità, mi fermo alla rivalità sportiva e credo che ci si debba fermare tutta la rivalità sportiva che anche se nella giusta misura anche sana e anche stimolante. Dal canto mio sarà importante cercare di invece di questa rivalità sportiva farla tramutare in energia positiva e non in arroganza, no? Senza esagerare nei toni, perché è comunque una partita di calcio. Come si può pensare di batterla? Cercando di segnare più di loro. No, dobbiamo fare la partita mettendo in campo le nostre caratteristiche, cercando di stanare le loro iniziative, perché hanno cose riconoscibili, continuative, e ti prendono anche sulla stanchezza mentale. Al volo sentiamo anche Paolo Cannavaro, che invece domani con il Napoli alle 20.45 giocherà all'Olimpico contro la Lazio, però in questo caso parla di Cavani. Sentiamo. Noi sappiamo che lui è qui e ci sta volentieri e ha sposato in pieno la causa Napoli. Fino all'ultimo giorno, che non si sa quale sarà, darà tutto sempre per questa maglia, perché è una persona seria e un atleta eccezionale. Quindi non c'è bisogno di dirgli stai qui, anche perché lui ci sta veramente volentieri. 800 24 00 24, siete tutti convocati anche dopo la borsa. Chiedo a lei, che conduce una trasmissione così credibile e seria. Tutti convocati. Cari ascoltatori, so perfettamente che domani c'è il rugby, inutile che me lo ricordiate, perché abbiamo in programma di parlarne ampiamente e allegramente tra poco. È la vigilia più attesa della nostra storia, che arriva giustamente dopo la vittoria più importante della nostra storia rugbistica in chiave azzurra. Intanto, se Rossi è andato forte a Sepang, la rossa ha avuto qualche problemino a Jerez nei primi test della Ferrari, al volante Pedro della Rosa, un paio di giri e poi fumo e estintori per la macchina, che si è fermata in mezzo alla pista ed è stata trainata verso la pit lane, pare problemi al cambio, quindi inizio complicato per la rossa, molto più che per Rossi. Antonio da Milano, 800 24 00 24, siete sempre convocati. Sì, buonasera. Buonasera. Invece il mio numero è l'11. L'11. Che è il numero che l'Avezzi a Parigi, perché io da tifoso del Napoli penso che se quest'anno fossimo riusciti a mantenerlo, probabilmente avremmo avuto, non ci sarebbe stata storia, io penso, saremmo stati veramente molto molto più forti, perché penso che Panda e Verissimi siano due equivoci, insomma. Pandev? Ed Insigne siano due, insomma, non in grado di poter andare a formare quel famoso tridente o a sostituirlo in quel famoso tridente, che poi, insomma, è veramente un tridente, sarebbe stato un tridente di fenomeni, perché giocatori come Cavani e Damsic, secondo me, sono veramente giocatori introvabili. Antonio, sul fatto che non ci sarebbe stata storia non lo so, però certamente il Napoli ha perso un giocatore importante, anche in questo caso era un accordo fatto e scritto, no? O quantomeno un accordo tra gentiluomini, mettiamola così, come ha raccontato lo stesso De Laurentiis. A me sembra che tutto sommato il Napoli abbia risentito non moltissimo dell'assenza di Lavezzi, che l'anno scorso ha giocato un po' a corrente alternata. Quest'anno si vede molto più Hamsik rispetto all'anno passato, quando anche lui giocò una stagione un po' sottotono. E poi c'è il mago il mago Cavani che copre tutto questo, quindi mi sembra che il Napoli stia funzionando anche così com'è, pur con equilibri un po' differenti. Allora, prima di tornare al basket e fare un po' di numeri anche con Flavio Tranquillo, io vi voglio far sentire, visto che sono battute di 5 minuti fa, quindi la cronaca in certi casi si impone, un paio di sassi lanciati da Conte nello stagno prima del sabato che vede impegnati sia la Juventus che il Napoli. Un Conte appunto sui calendari, sentiamolo. Sapendo che è un momento molto, molto delicato, molto intenso, che ci vede giocare in 7 giorni 3 partite, poi dalla portata di Fiorentina, Celtic e Roma, quindi giochiamo anche in anticipo sabato con la Roma, perché giusto per non farci mancare niente. Il vantaggio di giocare alle 6 è che non andremo a dormire alle 2 e quindi potremo recuperare un po' più di energie in vista anche della partita di martedì, ecco. Ci ritroviamo a giocare 3 partite, sabato alle 18, martedì alle 20.45 Scozia, e facciamo anche l'anticipo di sabato contro la Roma alle 20.45. Ecco, quello è più che altro che presterei l'attenzione su questo, più che sull'anticipo di 2 ore rispetto a Napoli-Lazio. Cose abbastanza già sentite negli anni passati, mi viene in mente Mourinho. Allora, adesso un Conte che neanche per la Fiorentina. Ma guardi, io da calciatore non l'ho mai vissuta sta rivalità, dico sinceramente, perché cioè, con tutto il rispetto della Fiorentina, rispettiamo la Fiorentina, però è più sentita da parte di Firenze questa partita. Noi dove andiamo sento che è sempre la partita della vita. Chi affronta la Juventus affronta comunque la partita della vita, quindi giochi contro il Cagliari è la partita della vita, giochi a Parma è la partita della vita, giochi a Bologna è la partita della vita, giochi col Milan è una rivalità, con l'Inter è una rivalità, quindi non pensiamo a questo perché ci provincializziamo, ecco. Siccome la Juventus è una grande squadra, non deve pensare a questo, quindi Conte non si vuole provincializzare. Ma io voglio tornare alla pallacanestro, voglio tornare al basket e voglio salutare Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Io vorrei chiederti anche una, prima dei numeri, che oggi abbiamo gli ascoltatori che danno i numeri, poi ne sottopongo un paio anche a te, però vorrei partire dalle parole che sono quelle già lette prima di Livio Prodi dopo il primo giro di valzer di Coppa Italia. Non si può umiliare così quello che rappresenta il gruppo Armani, si può perdere ma non così, bisogna giocare, non l'abbiamo fatto, ma il tempo dei cambiamenti è finito. Cosa significano queste parole e cosa significa la non partita giocata ieri sera da Milano? Ma presumo che le parole significhino che ha preso atto del fatto che quella di ieri non è una sconfitta normale, è una sconfitta molto significativa, anche per il motivo che ha spiegato, e però la sua conclusione non è quella che allora cambierà l'allenatore o cambierà il general manager o cambierà un giocatore o cambierà qualcosa, perché il tempo dei cambiamenti è finito. Questo credo che sia un'enunciazione, diciamo, della presa d'atto di quanto seria sia stata la sconfitta, e che però la conclusione non è quella che bisogna cambiare, ma che bisogna cambiare all'interno delle proprie risorse. Questa mi sembra l'interpretazione, anche da quello che sento in queste ore, delle parole di Prodi. Sì. Che cosa significhi la sconfitta? No, qua non ci arrivo. Onestamente non ci arrivo, nel senso che non ho mai visto una situazione di questo tipo protrarsi per così tanto tempo. Esatto, perché il fattore tempo. In questa sospensione. Ho visto squadre disfarsi, squadre andare male, squadre avere problemi anche con diverse persone o cambiando, però avere sempre questo stesso tipo di situazione. Se pensiamo mi viene in mente la partita di Torino contro Avellino, è una partita molto simile, cioè non è una partita di una squadra che non ce la fa, è una partita di una squadra che non dà mai l'impressione, se non per i primi 3 minuti, di poterla vincere. Peraltro in quei 3 minuti dà l'impressione non di poterla vincere, ma di doverla stravincere. E allora è talmente tanto tempo che non ho più la chiave di lettura. Certo, è lo stesso discorso che facevo prima con Coach Peterson. Mi sembra il refrain della situazione in cui si era trovato lui due stagioni fa, fuori dalla Coppa Italia, fuori dall'Eurolega, unica chance di campionato, e poi andò come andò, cioè alla stessa maniera, ma ormai da troppi anni. Sentiamo una cosa. Jennings perde banalmente il pallone, è un 3 contro 1 che può chiudere la partita. Gallinari si inventa un incredibile dipsy do alla Pete Maravich per la firma della partita. Cavolo! Giovane! E alla Mario Balotelli, a cui ha augurato in groppa al riccio, non esulta. E questo l'avete raccontato voi, eh? Il canestro incredibile di Gallinari, grande numero, un po' di fortunella, ma ci sta. Fortuna aiuta gli audaci, caro Flavio. Fortuna aiuta gli audaci. Così a un passo mi viene in mente che lo scorso anno Gallinari era a Milano. A un certo punto era diventato lui la causa di tutti. Bravo, bravo. Hai ragione. La butto lì. Poi non l'ho detta io, c'è un vetrino. Non l'ha detta Flavio Tranquillo, ma un pupazzo che ti assomiglia. Esatto. Gallinari era la causa di tutti i mali, perché è sovradimensionato, perché lui doveva essere... agire in punta di piedi, e quindi meno male che è andato via, adesso costruiamo la squadra. Andò così. Però a parte le battute serve per capire che effettivamente per certi versi quello che ha detto Prodi non è illogico, nel senso che avendo cambiato di tutto, essendo passato di tutto, non essendo certo possibile che Langford e Hairston, con il massimo rispetto, siano più deboli di Ere e di Rush o di Banks anche, che sono straordinari giocatori, però insomma quelli sono Langford e Hairston, ho fatto una fotografia, potrei farne altre 100, o che Gallinari piuttosto che tutti quelli che sono passati in questi anni non siano in condizione di giocare a pallacanestro, è evidente che il problema vada ricercato altrove. Sì. Ti butto lì due numeri che mi ha lanciato un ascoltatore, sono il 12 e il 7. Il 12 è quello di Dwight Howard, che è al centro di un'altra querelle, di un'altra delle querelle in quel circo Barnum che sono i Lakers. E l'altro è il 7, cioè quello di Bargnani, rientra, Toronto perde adesso... ultima settimana di trade, e si parla di un Bargnani in direzione Chicago. Per quello che riguarda il 12, situazione kafkiana, perché arrivare con un giocatore di quella importanza all'ultimo anno di contratto senza avere ormai nessuna certezza, e avendo passato questi mesi solo a distruggere le certezze, perché non si ha alcuna possibilità di capire quale sia veramente il suo problema fisico, quanto lo condizioni oggi, lo condizionerà domani, se lo condizionerà per sempre, perché quel tipo di problema è anche passibile di questo tipo di situazione, senza sapere se è un giocatore di pick and roll o di post passo, senza sapere se è un attaccante o un difensore, senza sapere se è uno spacca squadre o un allegrone, se è un superficiale o un pazzo. Questa è una situazione che normalmente non si dà, ed è veramente la situazione peggiore in cui tu vuoi trovarti, soprattutto quando il tuo giocatore più importante ha l'età di Kobe Bryant e il chilometraggio di Kobe Bryant. Questo dalla parte del 12, ma mi sembra irrecuperabile la situazione. Dalla parte del 7, per quello che so io, è un discorso serio, non è la solita voce così campata per aria. Diciamo che, se vogliamo ridurla veramente a estremamente semplici termini, sono due squadre che non vogliono più due giocatori che più o meno sono lo stesso ruolo, e provano a vedere se, invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto cambia. Grazie Flavio. A voi. Tutti convocati. Abbiamo convocato Giacomo Bagnasco perché gli ascoltatori, i rugbisti, i tifosi dell'Italia sono in fibrillazione per questa meravigliosa attesa, diciamoci la verità, per la trasferta in Scozia. Ciao Giacomo. Ciao Carlo. Sì, meravigliosa l'attesa, meravigliosa anche la partita di domenica scorsa vinta dall'Italia. La prima riflessione che mi è venuta, a Carlo, quando l'Italia ha segnato la seconda meta, che è stata quella del sorpasso decisivo, è che di solito mete così, da squadre più forti di noi le prendevamo. Prendiamo, bravo. Cioè attaccavamo, sembrava che piano piano riuscissimo a installarci nella metà campo avversaria, loro uscivano una volta, non sì. sbagliavano niente, e stavolta invece a non sbagliare niente siamo stati noi, e quindi bella, bella sensazione. E quindi bella lì. Tanto mescoliamo un po' tutto, Riccardo da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Cosa ci racconta? Sono il 15, azzurro, chiaramente. 15 e l'11 viola per domani, che sono defuso, defuso simpatizzante della Fiorentina. Mi dia una mano, che con parlare, i numeri sono un disastro, non andavo bene neanche in matematica al liceo. 15 il 15 no, volevo parlare del 15 azzurro, perché domani una vittoria a Marefield sarebbe un bel mattone, un bel mattone di fondamenta per una nazionale finalmente rispettata a livello mondiale, finalmente rispettata anche dagli arbitri, finalmente capace di non dare soltanto lavoro a falegnami per il cucchiaio di legno, ma dare soddisfazione a un movimento intero che parte dal basso con i giovani e che arriva fino alla nazionale. Quindi Forza Azzurri, 15 azzurro. Ogni vittoria è un mattone, è un mattone per il movimento. L'altro era l'11 viola. L'altro era l'11 viola, perché io l'11 sono viola. Un simpatizzante della Fiorentina e penso che domani la partita gioca soprattutto a centrocampo, perché tra Barcalero, che secondo me è uno dei migliori centrocampisti europei, Pirlo, Vidal, e non so se gioca Pizarro, perché non sono molto, molto informato. E quello sarebbe importante, però ancora più importante sarà così la condizione di Jovetic, che è quello che può avere il colpo risolutivo. Però ha sentito Conte, ha detto: questa partita non l'ho mai sentita, non sprovincializziamoci, che letto dall'altra parte vuol dire non diventiamo come loro, che invece la sentono così tanto. Magari sono malizioso io, ma non credo nella parafrasi. Grazie Riccardo, torniamo al rugby con Giacomo Bagnasco. Hai sentito cosa ha detto l'ascoltatore? D'altra parte, Giacomo, penso si sia tutti d'accordo su un'interpretazione, cioè questa vittoria sulla Francia è la più importante della storia del rugby azzurro. L'altro giorno un ascoltatore citava la prima e originale vittoria sulla Francia per un punto, ma quella ci aprì poi, secondo il libro degli ultimi anni del rugby italiano, la via verso il Sei Nazioni. Questa è sul campo con la Francia, squadra favorita per la vittoria finale, è onestamente la più importante. Sì, è la più importante, effettivamente quella del 97, ti correggo per una volta, finì 40-32, quindi 40-32. I punti furono 8. Si giocava in trasferta, però non era dentro il torneo, loro erano arrivati da un grande slam, eccetera. È la più importante, direi, insieme all'Italia-Scozia inaugurale del torneo delle Sei Nazioni, perché lì l'Italia arrivava oltretutto distrutta da un pessimo mondiale del 99. Però è importante, come dice l'ascoltatore, confermarsi con un pericolo. La Scozia, ad esempio da Planet Rugby, che è il sito sudafricano più importante del mondo per quanto riguarda il rugby, per una volta parte sfavorita. Credo che sia la prima volta in 14 anni che l'Italia parte favorita in una gara in trasferta. Questo è un pericolo. In ogni caso, noi abbiamo giocato 6 volte a Murrayfield, nelle Sei Nazioni 5 volte abbiamo perso. Loro hanno giocato comunque una partita di sostanza contro un'Inghilterra stratosferica, hanno fatto 2 belle mete, belle almeno come le nostre, hanno una seconda linea eccezionale, forse una delle migliori del mondo, con Gray che è 2,07 metri e Minto che è 1,92 metri e sembrerà pollicino. Insomma, non è il caso di darla per vinta. D'altra parte ne ha parlato anche Brunel del pericolo Scozia, sentiamolo. Noi sappiamo che per la Scozia quando ha visto il suo calendario, che hanno detto quest'anno, per non avere il cuccaccio di legno, dobbiamo vincere l'Italia, e sarà il più facile, è l'anno per finire penultimo. Qual è la, e andiamo a mettere tutte le forze in questo senso, sarà sicuramente difficile, molto difficile per noi, perché sarà una squadra che va a dare tutto in questo senso. Il cuccaccio di legno di Brunel. Sì, la pronuncia intanto, non è granché, ma il concetto, no, ma il concetto è chiaro. È chiarissimo. Intanto al volo vi dico che Maria Risch ha vinto la supercombinata mondiale di oggi alle sue spalle la slovena Mazze. Settima, bravissima un'altra volta, la ventenne Sofia Goggia, prima delle italiane. Sempre il CT della nazionale azzurra, Brunel, sulla formazione che vedremo domani. Come avete visto, la squadra è la stessa. È la stessa perché... perché in rapporto alla partita chi possiamo togliere, chi possiamo togliere, e quella è la domanda. Allora, o abbiamo due possibilità, o facciamo cambiamenti 3, 4, 5 per dare un po' di freschezza nel gruppo, per la squadra, è stata una possibilità, abbiamo pensato anche di fare qua, o in rapporto alla prestazione della squadra, chi dobbiamo togliere. E abbiamo preso la seconda possibilità. Pragmatismo tutto europeo, no? A differenza dei vari Mallet, sicuramente. Johnston, eccetera. Squadra che vince non si cambia. Ti dirò, anche quelle che hanno perso, infortunata. Anche quelle che hanno perso finora hanno cambiato poco. Quello che è cambiato è un po' la considerazione anche dei bookmakers nei confronti dell'Italia, che veniva data a 201, pensa, era straultima per la vittoria finale, che naturalmente rimane una chimera. Prima dell'inizio del torneo, adesso è data a una quota tra il 20 e il 33. Crollano poco, le quotazioni della Francia, la Scozia, che era molto davanti a noi, adesso è data a 100, ed è una cosa curiosa, interessante, insomma. Il potere di questa vittoria sulla Francia. Quindi formazione che non cambia, salvo una pedina, cioè Canale al posto di Sgarbi, che si è sgarrupato. Sì, ecco, l'altra cosa secondo me che è importante, Carlo, ne abbiamo scritto sul sito del Sole 24 Ore, che oltretutto fa uno speciale dedicato al Sei Nazioni e farà la diretta testuale anche domani. Sì. Ormai ci sono 23 giocatori, 15 più 8, quegli 8 quasi sempre entrano tutti e non entrano a partita finita per dargli il cap e la presenza. Ormai si spreme un giocatore per 50-60 minuti, sì, e poi entrano gli altri, almeno se sono all'altezza, al livello di questo torneo. In questo momento tutti gli azzurri hanno dimostrato di essere a questo livello e anche questa è una bella conquista. Tanto per chiudere, Giacomo, domani festa per lo Cicero, 100 maglie azzurre. 100 maglie azzurre, ha cominciato nel secondo millennio, ha cominciato nel 99, quindi onore al merito di Andrea Lo Cicero, che domani entrerà davanti agli altri. Entra davanti agli altri come vuole la tradizione, lui ambizioso lo è di sicuro, quindi non avrebbe fatto come Richie McCaw, che per le 100 presenze è entrato davanti ma con gli altri subito dietro e solo perché era il capitano. Attenzione, mi dicono che il Cagliari, stiamo chiudendo, ma il Cagliari non prepara il viaggio a Torino, oggi le comiche, domani pure e domenica anche. Amici ascoltatori, vi saluto, ringrazio Giacomo Bagnasco, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani con il magazine dalle 5 alle 6. Ciao a tutti. In bocca al lupo a Sanremo. Dopo non so, perché nel mondo dello spettacolo magari fanno mille scongiuri, nostri in bocca al lupo, sono un po' superstiziosi. Un in bocca al lupo sincero. Merda? Merda. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Io sognavo montagne verdi. Un caccio di legno.